Come stiamo? Allora, io sono felice che qui dentro non sia ancora entrato il caldo. Forse questa è l'ultima domenica fresca, ed è stata fatta per me che predico io. Pastore, Luciana, mettetemi a pregare adesso, a predicare, insomma, a dicembre. Perché io odio sudare, e sudo, però. È fresco ancora qui dentro, sono grato a Dio di questo fresco, davvero. E sarebbe stato debilitante per me se fosse stato molto caldo, e Dio ha cura di me anche in queste cose. L'ha fatto per me, insomma, posso dirlo così? No, l'ha fatto per tutti quanti noi, per donarci una bella domenica mattina. Buongiorno Mottola, io so che non vengo più a trovarvi, ma la colpa non è mia, quella è Giovanni che non vuole più che io venga a Mottola, e quindi prendetevela con Giovanni. Io devo fare anche una proposta al Team Power. Sarebbe bello se non... insomma, nel futuro si pensasse anche di avere un collegamento diretto con Mottola, cioè un po' come si fanno le dirette in TV, che a un certo punto compaiono, almeno che li vediamo, che ci fanno con la mano così, mettiamo una webcam da quelle parti e almeno ogni tanto li vediamo, abbiamo un segnale di presenza. Io l'ho detto, vedete se un giorno si può fare una cosa del genere. Secondo me si può fare, dai, siete in grado di farlo, ovviamente a basso costo. Questa è, diciamo, la condizione essenziale per poter fare questa cosa, altrimenti non la facciamo. Grazie Team Power, sono fantastici, loro sono pronti, accolgono le tue richieste, li mettono subito lì, si mettono all'opera per poterci permettere di avere le slide, le notizie, i versi che andremo a leggere questa mattina. E cominciamo subito dal primo verso. Sono un po' di versetti messi tutti quanti insieme lì, ma li ho definiti così belli, sono poetici, guardate. Qualcuno dice che c'è stata una certa ricercatezza da parte dell'Apostolo Pietro nel scrivere questa epistola, la seconda epistola, che da un punto di vista della forma è molto diversa dalla prima. Guardate com'è bello. 2 Pietro 3:9. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della stessa parola, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate questa unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di noi, di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quello che mi ha meravigliato di questi versi è stata l'autorevolezza della parola di Dio che ne viene fuori. E detto in altri termini, c'è questo. Ho ristretto un po' il campo d'azione, quindi non ho preso l'eternità passata e l'eternità futura, ma ho preso il primo giorno in cui la terra, cieli e terra sono stati creati e il giorno in cui verranno creati nuovi cieli e nuova terra. In questo arco di tempo, che non sappiamo quanto è, si colloca la storia dell'umanità. È Dio autore e protagonista di questa storia. Ripeto, Dio autore e protagonista di questa storia, non noi. Noi siamo attori, non protagonisti. C'è un premio anche per noi, come negli Oscar. Ci sono anche i premi per gli attori non protagonisti. Ma il protagonista non siamo noi di questa storia, è Dio. E la sua volontà è quello che lui ha in serbo per noi. E questi versi mettono chiaramente in risalto che quello che lui ha detto è successo. Che poi noi uomini vogliamo stare un attimo a fare disquisizioni su quando, come, perché non sarà vero. La Bibbia dice, ok, possono dire quello che vogliono, ma quando lui ha detto che fossero cielo e terra, sono stati. Quando lui ha detto che tutto doveva essere ricoperto dall'acqua con Noè, così è stato. E dopodiché, quando lui ha detto che non avrebbe mai più fatto una cosa del genere e che quei cieli e che quella terra devono esistere fino al giorno in cui tutto sarà finito, perché ci saranno nuovi cieli e nuova terra, così sta andando. Questo ci mette nella condizione di poter un attimo riflettere sul fatto che se lui dice, mantiene. Quello che lui ha proferito è stato proferito affinché possa accadere. Quando? Questo è il grande dubbio degli uomini, è quando tornerà Gesù. 1000 giorni, dice Pietro, è come un giorno è come 1000 anni e 1000 anni è come un giorno. Per farci capire che non possiamo cercare di restringere nel nostro orologio i tempi di Dio, ma quello che lui ha detto accade. E qui c'è poi una promessa essenziale, la promessa nella speranza della quale noi viviamo, il ritorno di Gesù e quindi l'incontro con lui. E quindi, forti nella nostra fede e nella fedeltà di Dio, andiamo avanti aspettando che quel giorno arriverà, come tutte le altre cose che lui ha promesso. Ma non parleremo del ritorno di Gesù, non parleremo degli ultimi tempi, non parleremo di l'altro giorno abbiamo avuto un piccolo... Non è che per caso c'è Karen? No. Ho avuto un incontro con Karen e parlavamo di... Non avevo idea che ci fosse anche teologia dell'ambiente, proprio nel senso come ambiente ecologia, facciamo così. E mi ha interessato, affascinato questo discorso. E non parleremo neanche di questo, ma... andremo un attimo a considerare ciò che Dio ha promesso. Vi chiedo di poter leggere con me queste frasi, che sono prese dai versi della Bibbia, che ho cercato di mettere in maniera tale che fosse un discorso unico, ma vi prego di leggerle non come fosse un documento, come fosse una qualsiasi lettura. È la mia voce che ve li leggerà, ma prendiamole come le parole che Dio vuole dirci questa mattina. Sono le sue promesse per ognuno di noi. Guardate quanto è sconvolgente quello che lui ci ha promesso. È davvero da brividi sulla pelle. Siamo pronti? Sì, così possono leggerli insieme. Siete completi in Gesù, che è il capo al di sopra di ogni principato e potestà. Vivificati in Cristo Gesù. Liberi dalla legge del peccato e della morte, non dovete avere nulla da temere, perché l'oppressione è tenuta lontana da voi. Sappiate che siete vincitori sull'opera del maligno. Non c'è più colpa sulla vostra vita. Siete santi e irreprensibili davanti a me, Dio. Siete uomini e donne nuove. Avete la mente di Cristo, avete una pace che sopravanza ogni intelligenza. Vi è data la potenza dello Spirito Santo. Sappiate di poter chiedere e ricevere. Io, Dio, provvedo ai vostri bisogni. Potete ogni cosa in Gesù che vi fortifica. Siete ambasciatori di Cristo, saldi nella fede, edificati in Lui, guariti per le sue lividure, fortificati per essere pazienti e perseveranti in ogni cosa. Siete miei figli, grandemente amati. Preghiamo un attimo. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché abbiamo avuto accesso a tutto questo e ancora di più, solo ed esclusivamente grazie al tuo nome, solo ed esclusivamente grazie al tuo sacrificio. E ti ringraziamo, Padre, perché pensi così tanto di noi, hai dato così tanto di te a noi, ti prodighi ancora oggi per poterci avere a te come figli prediletti, amati, scelti. Grazie per tutto questo. Ed io prego che le tue parole, Signore, possano rimanere nei nostri cuori questa mattina. Quella singola parola che deve rimanere, che venga marchiata a fuoco sulla nostra esistenza, sulla nostra vita, sulle nostre giornate, sul nostro essere in questa Chiesa. Io prego che questo accada per opera tua, Spirito Santo, nelle nostre vite. Ne abbiamo bisogno. Grazie. Grazie perché non ci lasci privi anche di tutto questo, della consapevolezza, dell'intelligenza, dello spirito sveglio, vigilante nel poter ricevere la tua parola in questa mattina. Grazie Signore. Amen. L'Apostolo Pietro, quando inizia la seconda epistola, dice questa cosa qui. è particolare, insomma, suona come dire, vi scrivo perché voglio che la vostra mente resti desta, cioè bella sveglia, facendo appello alla vostra memoria. L'Apostolo Pietro sta dicendo, allora, siccome lui era prettamente, come dire, incarnava l'umanità in tutti i suoi difetti anche, abbiamo capito un po' questo, che sembra che l'Apostolo Paolo sia un po' più perfettino in alcuni aspetti caratteriali, seppure anche lui, insomma, ne ha fatte di belle cose nella vita. Ma l'Apostolo Pietro ha sempre mostrato un po' la sua personalità, questo essere un po' burbero, ma anche molto terra-terra, senza tanti discorsi faraginosi e filosofici, sempre bello molto molto pratico. E vi dice, ok ragazzi, ma ve lo dico chiaramente, qua mi sembra che ogni tanto noi ci dimentichiamo le cose di Dio, e allora facciamo che ci rinfreschiamo la mente. Lui proprio sta dicendo questa cosa, come? Ritornando alla memoria. Noi non dimentichiamo, noi mettiamo nel dimenticatoio, nel senso che è uno sgabuzzino della nostra memoria, e quindi a volte è un po' difficile, come quando, non so, avete fatto il cambio delle scarpe in questo periodo, io mi sono reso conto che avevo un paio di scarpe nuovo, comprato, che non avevo mai più messo, perché mi ero proprio dimenticato che ce le avevo. Nel momento in cui sono andato ad uscire le scarpe, ho detto, oh, avevo un paio di scarpe nuove. Un po' accade con le cose di Dio. Noi abbiamo un sacco di promesse, addirittura si dice che nella Bibbia ci siano 3.000 promesse, molte avverate, molte in, come dire, in work in progress, altre che stanno per venire, ma sono 3.000 promesse e sinceramente io non me le ricordo tutte 3.000 a memoria. Però le so, se le vado a leggere dico, ah vedi, sì c'è questa promessa, me ne ero dimenticato. Andare a leggere la parola di Dio è un po' fare questo, è riportare alla memoria, quindi tirare fuori da quello sgabuzzino e portarlo subito in avanti, una o 10 o 100 delle promesse che Dio ha per la tua vita e per questa Chiesa. E stamattina noi vogliamo un po' considerare il perché Dio faccia delle promesse, perché noi abbiamo un concetto anche un po' sbagliato delle promesse. Vi faccio questo esempio. Noi utilizziamo le promesse generalmente in due modi. Il primo modo, come premio classico che si fa ai bambini. Parentesi, è diseducativo dire e fare questa cosa. Se ti comporti bene, ti prometto che ti do una caramella. Ora, noi utilizziamo la promessa come uno strumento. La promessa non dovrebbe essere utilizzata in quanto tale, non dovrebbe essere utilizzata come uno strumento. Un altro modo che gli adulti usano molto spesso, poi noi diciamo che non possiamo giurare, allora che cosa faccio? Prometto. E guarda, te lo prometto, perché non posso dire te lo giuro. Guarda che te lo prometto. Come se metto in buona fede quello che io sto dicendo. Ma anche quello non è promessa. L'Apostolo Pietro è stato molto, molto chiaro nel definire perché Dio dà promesse. Né perché vuole darci un premio, né perché vuole sottolineare che lui è in buona fede. L'Apostolo Pietro dice questo, 2 Pietro 1,4, ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Le promesse che noi abbiamo ricevuto da Dio non sono né un premio né qualsiasi altra cosa potremmo immaginarci e pensare, è parte della volontà di Dio per me e per te, affinché noi potessimo diventare partecipi della sua natura. Sottolineo velocemente questa cosa, non diventiamo dei semidio, attenzione. Semplicemente l'Apostolo Pietro sta dicendo che noi possiamo tornare a fare nostra quella promessa di essere stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Noi siamo stati creati in questi termini. E a volte è un po' difficile vedere questa somiglianza, la stessa immagine di Cristo in noi. Il Nuovo Testamento dice che noi andiamo crescendo alla statura di Cristo. È questo che sta dicendo l'Apostolo Pietro. Le promesse che Dio ci ha fatto, e questa è la prima verità di questa mattinata, è che Dio ci ha fatto delle promesse affinché noi potessimo portare, vivere praticamente, quel processo di trasformazione che è in atto nella nostra vita nel momento in cui abbiamo scelto di seguire Gesù. Le sue promesse sono la maniera, il modo che Dio ci dà di poter essere trasformati. Quest'anno che viviamo questa visione come Chiesa, ma poi molto personale, di essere trasformati di gloria in gloria, è proprio questo, è Uno dei modi è certamente fare appello alle promesse di Dio. Ricordarsele è un modo per incominciare a viverle, vedremo, ed è un modo per poter essere in quella continuità di trasformazione per la nostra vita. Io andrò molto veloce su questa parte, perché qui non andiamo oggi stamattina a mettere in dubbio se Dio mantiene o non mantiene le sue promesse. Abbiamo capito che Lui è fedele, che Lui è immutabile, quello che dice mantiene, quindi non è che sto lì oggi a dire bah, perché alcune promesse accadono, altre non accadono. Quindi vi dico semplicemente che nel momento in cui Dio ci dà delle promesse, Lui ce le ha date con l'intento, uno, di farsi conoscere. Noi attraverso le promesse di Dio lo conosciamo, capiamo chi è e capiamo fondamentalmente una cosa, che Lui è colui che era, che è e che sarà. Da tutte le promesse che Dio ci fa nella sua parola emerge questo, che Lui è immutabile, che Lui è vero, che Lui è amorevole, paziente e tutti gli aggettivi che gli vogliamo mettere, ma al di sopra di tutto Lui è Dio e nessuno può cambiargli qualcosina, nessuno può ridefinirlo, né tantomeno noi con i nostri preconcetti o con i nostri tempi o con la nostra vita. Lui è Dio. E quindi ci fa delle promesse per farsi conoscere, ci fa delle promesse per alimentare in noi la speranza. È importante, Dio sa quanto siamo carenti da questo punto di vista. Mai come oggi, la società di oggi è priva di speranza. Cioè, proprio è scritto nei libri che non c'è più speranza in questo mondo. Hanno scritto anche sui libri, immaginate, Dio lo diceva da nottetempo. Ma più che mai Dio oggi vuole ricordarci le sue promesse, perché vuole alimentare in noi una speranza. In che cosa? Nel fatto che Lui mantiene le promesse? Relativamente. E nel fatto che Lui è Dio? Sì. Noi dobbiamo avere speranza nel fatto che Dio è Dio e non cambia. Se io credo a questo, la mia speranza è spinta a livelli assurdi, perché non è più una speranza che sta lì a considerare le situazioni, la giornata sì e la giornata no, il progetto facile o il progetto difficile. Sto considerando Dio, che è Dio, e non può essere mutato, non può cambiare. E lì la mia speranza cresce tantissimo. Ed un'altra cosa del perché Dio fa delle promesse a noi è perché Lui è onorato ed è celebrato e esaltato dalle sue stesse promesse. In che senso? Nel momento in cui io faccio fede ad una promessa che Dio mi ha dato, quello che immediatamente faccio è incominciare a ringraziarlo e esaltarlo. È facile poter ringraziare Dio per la promessa mantenuta, quello è quasi educazione, facciamo così. È molto più sfidante ringraziare ed essere felici per una promessa che è in corso, che non è ancora avvenuta. Ed è lì che io esalto Dio e vado contro la logica umana e grido invece nello spirituale che Dio è Dio e che Lui è fedele e che Lui è il mio Dio, colui che si prende cura di me, colui che mi ha scelto, e possiamo continuare in questa maniera. In quella maniera Dio è innalzato dalle promesse che Lui stesso fa. Tutto, come diceva benissimo Gianluca, riguarda l'adorazione. L'adorazione nostra nei confronti di Dio. Dio è degno di essere adorato qui su questa terra e nei luoghi celesti. Nei luoghi celesti c'è un'adorazione costante nei suoi confronti. Noi con la nostra vita dobbiamo riprodurre in qualche maniera quell'adorazione costante e far riferimento a quello che Lui ci ha detto è certamente un modo per poterlo onorare. Ma come vi dicevo, qui stiamo parlando di Dio ancora. Vi ho fatto, come dire, una bella fotografia di uno degli aspetti più belli, più affascinanti, più anche potenti della figura di Dio. Ed è Dio. E ci metto un bel punto. Andiamo a capo e incomincio invece la seconda parte di questo messaggio che riguarda noi. Perché è qui che qualcosa cambia. Stamattina ci vogliamo interrogare su come noi viviamo le promesse di Dio. Sapete, quando Dio dà delle promesse, Lui non le dà mai, e questa è la seconda verità di questa mattinata, Lui non le dà mai senza che queste vengano affiancate da un piano che richieda fede e responsabilità da parte nostra. Lo capiamo subito praticamente che cosa significa. Però voglio prima leggere con voi questo verso, Ebrei 10:36, cioè, sì, infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Qui qualcuno potrebbe dire: Luigi, ma tu hai detto che le promesse non vengono mai come contraccambio di qualcosa. Ed è vero, non vengono mai, le promesse di Dio non vengono mai come contraccambio di qualcosa. Questo verso, in una interpretazione, come dire, immediata, sembrerebbe che possa dire: se ti comporti da brava persona e fai tutte le cose che Dio ti ha detto, ok, lui mantiene le promesse che ti ha fatto. No, non è questo quello che questo verso sta dicendo. Questo verso mette in realtà in risalto qualcosa di molto più profondo, che c'è una diretta connessione fra le promesse di Dio e la volontà di Dio. Se io faccio la volontà di Dio, sto facendo che sì, che le promesse di Dio possano trovare compimento. Facciamoci caso, le promesse di Dio, tra l'altro, non sono la volontà sua per la nostra vita? Non sono nient'altro che queste. Le promesse di Dio non sono: se ti comporti bene, ti meriterai una bellissima vacanza quest'estate. Dio dice: se ti prendi cura di prendere un buon tempo di ristoro, di riposo alla mia presenza, guarda Luigi che starai bene, sarà come stare agli Hawaii. Questa è la volontà di Dio, che io stia bene e che io stia alla sua presenza. Le promesse di Dio, come vedremo anche in altri casi, sono sempre legate alla sua volontà. Se io faccio la volontà di Dio, io sto vivendo la promessa di Dio. Se io sto sperando le promesse di Dio, io sto sperando che la volontà di Dio venga compiuta nella mia vita. È la stessa cosa, è semplicemente, come dire, andare da un concetto molto generale, la volontà di Dio, al particolare, a quell'applicazione della volontà nella mia quotidianità, nella mia giornata. Oggi mi sento stanco, Signore, io so che tu per me sei forza. Oggi mi sento super felice e so che questa era la tua promessa per me, Signore. E quindi, dato che sono super felice, non potrò fare nient'altro che adorarti e innalzarti, perché questa è la tua volontà, così come che io sia felicissimo. Ma oggi sono super triste e non ce la faccio. Però so che posso trovare in te ispirazione, posso trovare in te motivazione. Tu, la tua promessa, Spirito Santo, per me mi porta ad avere una relazione con il Padre. Questa è la volontà del Padre, così come era la volontà del Padre che avessimo la promessa dello Spirito Santo, e così come è promessa del Padre, è volontà del Padre, che la mia relazione con Lui sia sempre spinta verso livelli più alti. È difficile separare le promesse di Dio dalla volontà di Dio, perché sono la stessa cosa. E lo vedremo anche praticamente per la nostra vita e per la Chiesa. Non c'è differenza fra quello che Dio vuole e quello che Lui ha promesso. Quando mi sono interrogato, ok, come facciamo quindi a vivere praticamente tutto questo? Ho innanzitutto preso una parolina, che è fedelmente. Fedelmente è un avverbio che mette in comunione le due cose che ho detto inizialmente. Vi ho detto che ogni promessa di Dio è sempre legata ad un piano di fede e responsabilità da parte nostra. Fedelmente significa credere, essere convinti e anche impegnarsi. Fede è credere, fede è essere convinti, straconvinti di quello che Dio ha promesso. Responsabilità è impegno. E fare qualcosa affinché la promessa possa trovare realizzazione. Perché noi possiamo fare qualcosa per far sì che la promessa venga preparata. Ma prima c'è un passaggio. Ho preso queste tre immagini. La prima immagine è abbracciare la promessa. Noi è importante che abbracciamo le promesse di Dio. Davanti a una promessa di Dio, generalmente ho pensato, tre possono essere le possibili maniere di rapportarsi a queste. La prima è: la conosco questa promessa, però non l'ho mai vista realizzata. In quel caso, potrebbe anche essere vero che quella promessa non si è mai realizzata, ma fondamentalmente ci stiamo privando della possibilità di poter vedere la realizzazione di una promessa, perché io non sto abbracciando la promessa. Al massimo gli sto dando una fredda stretta di mano, cioè: ah sì, io ti conosco, però niente a che fare con la mia vita, non ho mai vista realizzata questa promessa. Secondo caso invece, davanti a una promessa di Dio, è che sì, mi ricordo nel 1982 questa promessa proprio azzeccatissima in quel periodo, ho visto come si è realizzato, cioè Dio aveva promesso e è stata mantenuta quella promessa e si è realizzato. Fermo lì al 1982, come se da quel momento in poi tutto quello non fosse più vero, si fosse chiuso. Ci sono delle promesse che sono per un tempo e che Dio mette, come dire, un punto, ma in realtà non è mai un punto conclusivo, è semplicemente lo step che porta verso la promessa successiva. Le promesse di Dio sono continue, sono state date con una certa continuità, una legata all'altra, affinché l'umanità intera potesse vivere il beneficio di quelle promesse. Io non posso dire che Dio ha guarito l'anno scorso e quella promessa oggi non può essere mantenuta, o che Dio ha salvato 10 persone l'anno scorso e quest'anno, insomma, la salvezza si riduce a una sola persona. Le sue promesse sono continue, sono in continuità, o perlomeno collegate l'una all'altra. Rimanere bloccati a una promessa passata, accaduta, avvenuta, senza una prospettiva nuova verso il davanti, è perdere nuovamente la realizzazione di un'altra promessa. Solo se io abbraccio la promessa, ho la possibilità di poter credere che quelle promesse sono in continuità. Perché io sono abbracciato, facciamo che questa sia una promessa, ok? Io sono abbracciato alla promessa. E se questa promessa si sposta, ora viene Antonio, sì, stava facendo il runner, e sposta questo leggio, e io ci sono aggrappato, io andrò insieme a questo leggio. Io devo essere aggrappato, abbracciato alle promesse di Dio, perché qualunque sarà il percorso che quella promessa prenderà, che noi non possiamo controllare, non possiamo definire, io ci sarò dentro, perché ci sono abbracciato. E dopo che ho abbracciato una promessa, inevitabilmente mi porto a preparare la promessa. Perché le promesse vengono preparate. In che termini potreste dirmi? Che significa preparare una promessa? In realtà tutti i grandi della Bibbia hanno sempre preparato la promessa che Dio gli hanno dato, facendo anche un gran caos molte volte. Immaginate la promessa data ad Abramo e Sara, che loro sarebbero stati progenitori di una stirpe, insomma, di un popolo di milioni e milioni di persone. E questi che fanno? Ok, tu non puoi avere figli, la moglie, Sara non poteva avere figli. Siamo comunque vecchi, però insomma, oltre alla vecchiaia ci possiamo andare, Dio l'ha promesso, però tu non puoi avere figli. Che facciamo? C'è Agar. Proviamo con Agar. Agar ti darà un figlio. Soluzione umana. E Dio lì ritorna dicendo, ma che state facendo? Pensate che se io prometto, poi vi lascio fare a testa vostra? Voi dovete fare qualcosa, ma quello che io vi dico. Fondamentalmente c'è stato un rivedere una relazione coniugale in quel caso, perché ci sono state delle forti incoerenze coniugali fra Abramo e Sara, c'è stato un rivedere la loro posizione davanti alla promessa di Dio, e quando hanno effettivamente incominciato a preparare che la promessa potesse venire, come? Con il cuore. Con il cuore hanno preparato che la promessa potesse venire, la promessa è arrivata. Ed è quello che le è stato messo in conto di giustizia, quel credere fedelmente, quindi essere fedeli a Dio, alla promessa fatta, che gli ha permesso di poter ricevere la promessa stessa. Noi prepariamo le promesse di Dio, e le prepariamo anche, come dire, facendoci proprio più spazio, ad esempio. Può essere uno spazio mentale, a volte siamo chiusi nella nostra testa, e quindi dico non c'è spazio nella mia testa, nella mia vita oggi, per questa promessa di Dio. Possiamo anche fare più spazio fisico. Immaginate il giorno, è anche successo più volte, noi abbiamo fatto, come dire, transizioni, spostamenti di chiesa in vista del fatto che noi abbiamo la promessa da parte di Dio di una chiesa anche numerosa dal punto di vista proprio di persone. E quindi abbiamo fatto passi di fede, prendendoci anche delle responsabilità pratiche, trovando spazi più grandi. Forse oggi dobbiamo già incominciare a fare un altro passo di fede di questo genere, pensare ad uno spazio più grande. Oppure andare in un luogo, questo è anche preparare le promesse. Se c'è la promessa di Dio che a Bitetto ci sarà un popolo scelto da Lui, io a Bitetto ci devo andare. Altrimenti quel popolo a Bitetto non ci sarà, perlomeno per opera mia, se Dio mi ha chiamato a questo. Quando Dio ci dà una promessa, ci chiama ad essere parte di quella promessa. Lui è quello che compie, ma noi dobbiamo essere parte. Ricordiamo, attori, non protagonisti, ma comunque attori. Ci siamo dentro, perché altrimenti Quello che accade è che siamo fuori e vediamo da lontano accadere qualcosa. E la Bibbia è piena di esempi di persone che sono rimaste fuori dalla promessa. Ma noi non siamo di quella gente, noi siamo quelli che invece ci vogliono stare appieno dentro. E quando ci siamo dentro, dopo che ho abbracciato e dopo che incomincio a preparare la promessa, ad un certo punto, inevitabilmente, io incomincio a celebrare la promessa. Io incomincio a ringraziare per quello che è venuto, per quello che sta avvenendo e per quello che accadrà, come se già tutto quanto fosse in atto davanti a me. Io già incomincio ad innalzare Dio, e quando noi innalziamo Dio, stiamo celebrando per chi Lui è, lo stiamo celebrando per la sua fedeltà. Le sue promesse trovano in noi ancora spazio per poter essere confermate, scritte nel nostro cuore. Torniamo di nuovo lì. Abbiamo incominciato con l'adorazione, si ritorna sempre all'adorazione. C'è la necessità che noi celebriamo le promesse di Dio e non come qualcosa di autocelebrativo. Siamo una chiesa grande, wow, che bella questa promessa. No, ma è grazie a Dio che ci hai resi una chiesa grande. È grazie a Dio perché tu ci renderai ancora più grandi. Grazie a Dio perché ci darai occasione di poter arrivare in posti che ancora non abbiamo raggiunto. Grazie a Dio perché tu sei potente e sei in autorità da poter andare oltre i nostri limiti. Tutti i limiti che ci possiamo immaginare. Lui è oltre, può andare oltre. Lì celebriamo la promessa e la promessa trova più spazio ancora per poter essere vissuta, per potersi concretizzare. Fate, se vi va, un vostro studio personale nella Bibbia e vedete come tutte le promesse, fondamentalmente, chi ha vissuto le promesse segue questo percorso. E quando non l'ha seguito le promesse, non che sono andate male le promesse, è quella persona che ha vissuto male o non ha vissuto la realizzazione di quella promessa o ha dovuto ripercorrere un po' il tutto per ritornare a vivere la promessa che Dio ha fatto. Io voglio dirvi questa cosa: se Dio ti ha promesso qualcosa e quel qualcosa non è accaduto per un motivo o per un altro, quella promessa non è andata persa. Dio ti permette di nuovo di poterla fare tua personalmente questa mattina. Prendi, vai a scavare nella tua memoria, incomincia a farlo subito e incomincia a ricordarti qual è la promessa che Dio aveva fatto alla tua vita, quella promessa specifica, scritta nella sua parola o ispirata nel tuo cuore, che parla di chi tu sei per Lui, che parla di come Lui ti ha visto, di quello che Lui ha pensato per te, del senso pieno della tua esistenza fino all'ultimo giorno. Perché le promesse sono per tutti, sono per i più piccoli e sono anche per i più grandi. Non c'è un'età in cui le promesse di Dio non hanno più senso o non hanno più valore. Riscopri la promessa che Dio ti ha fatto. E poi, come chiesa, noi abbiamo questa promessa straordinaria. Una grande chiesa, un popolo di adoratori. Impegnato ad obbedire al grande comandamento e al grande mandato. Farà crescere una grande chiesa alla gloria di Dio. L'adorazione, come qualcosa che deve contraddistinguerci, come fare la volontà di Dio. Se io faccio la volontà di Dio, quindi lo adoro, adorandolo inevitabilmente mi porto verso di Lui e quando sono con Lui in me è promosso la volontà di Dio, così come amare Dio, amare il prossimo e andare. È lì che facendo tutto questo la Chiesa cresce. Questa è la promessa di Dio per la Chiesa di Modugno. Ma per la Chiesa in generale, universale, questa è la stessa promessa che Dio fa. Detta forse in altre parole, a noi piace dirla così, il Signore l'ha rivelata al pastore Pinuccio in questi termini. Ma è la volontà di Dio, lo troviamo scritto nella Bibbia, che le cose devono andare così necessariamente. E noi siamo ancora abbracciati a quella promessa come Chiesa? Stretti, dobbiamo stare stretti a quella promessa. Io questo non volevo perché lo sapevo. Questo è il messaggio di stamattina fino ad oggi, è quello che Dio ha detto a me personalmente. E poi ho sentito forte per tutti quanti noi: non tiratevi indietro. Gesù non si è tirato indietro. Alla stessa maniera, noi non dobbiamo tirarci indietro. Lui l'ha fatto per noi, affinché oggi noi potessimo essere, come è scritto nella sua parola, ministri del nuovo patto, resi idonei, capaci di poterlo essere, di poterlo fare. Gesù non si aspetta la perfezione da noi. Gesù non si aspetta che siamo capaci di fare tutto. Lui semplicemente si aspetta che noi possiamo portare avanti il piano che Dio ha con la nostra vita e con il mondo intero, che è la stessa cosa. Non c'è una volontà di Dio per te e per me a casa nostra e poi una volontà di Dio per il mondo. La volontà è unica, che nessuno vada perso. Abbiamo la cena del Signore questa mattina ed è, credo, un'occasione migliore non ci poteva essere per rinfrescarci la mente su cosa Gesù ha fatto, ma è di più di andare semplicemente a pescare qualcosa nella memoria e vivere un atto così potente, così autorevole, tanto da poter mettere un sì e un amen sulle promesse di Dio per questa chiesa e per la tua vita. Io vi invito ad alzarvi, per favore. E vi invito con me a prenderci un tempo dove ci ricordiamo di quello che Dio ci ha promesso e soprattutto ci ricordiamo del fatto che noi abbiamo detto sì. Forse non ti è mai capitato di dire: Signore, io ci sono con tutta la mia vita. Questa può essere l'occasione oggi per dire: io ci sono con tutta la mia vita. Probabilmente stamattina devi ricordare di nuovo a te stesso: Dio, io ho consacrato la mia vita a te, io voglio esserti fedele sempre. E tutto questo è di più di noi, ma nel sacrificio di Gesù, in quel nome, c'è l'autorità per poterlo proferire sulla nostra vita con autorità. Prendi il tuo tempo con Gesù questa mattina e lasciati ispirare dalla sua parola ancora. E poi viviamo la cena come un'occasione per dire: sì, io voglio abbracciare le tue promesse, io voglio darmi per poterle preparare e io voglio celebrarti al di sopra di ogni altra cosa. Preghiamo. Grazie Padre, grazie perché tu hai delle parole così piene di amore nei nostri confronti, hai delle parole così cariche, così significative, così importanti per la nostra esistenza. Non ti fermi a guardare i nostri errori, l'abbiamo cantato, il tuo amore è più grande dei nostri errori ed è per questo che possiamo in questo istante venire davanti a te e vivere questo tempo speciale alla tua presenza come un tempo dove ci riconsacriamo a te, dove rimettiamo nuovamente in gioco la nostra vita davanti alle tue promesse, davanti alla tua parola. E io prego in questo istante, Spirito Santo, che tu possa muoverti e possa fare tu l'opera che deve essere compiuta nei cuori di ognuno di noi, che possa essere la tua parola a trovare la strada per poter arrivare e portare e far mettere radici affinché frutto ne venga e sia un frutto duraturo, perché questo parla di fedeltà, questo parla di qualcosa che va verso l'eternità. Noi preghiamo per questo. Proteggi il frutto delle nostre mani, proteggi i nostri pensieri, proteggi il nostro operato, il nostro servirti. Tu conosci il nostro cuore, ci ami per la nostra passione, per la causa del regno, e grazie perché tu sovvieni a tutto questo. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché del darti completamente per noi, noi oggi possiamo dire la stessa cosa di noi stessi. Possiamo darci completamente e non perché ne siamo in grado, ma perché tu hai fatto per noi un sacrificio che ci porta a poterci consacrare al Padre e vivere la volontà del Padre per la nostra vita. Grazie, Signore. Grazie per il tempo che ancora hai da spendere con noi in questi istanti, in questi minuti, che possa essere ancora un tempo di edificazione e di benedizione sulle nostre vite. Amen. Possiamo partecipare alla cena del Signore.